meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The latest we have from the state media here is that it was an Airbus 321 and that it was carrying 224 people, that's 217 passengers and 7 crew. La tragedia del metro jet russo precipitato nel Sinai, un Airbus 321, 224 morti, devo dire, ha dominato ieri e molto del dibattito politico americano, politico e naturalmente il dibattito sul terrorismo, anche perché ha ricordato questo incidente, un altro tragico incidente, quello del Panam, del volo Panam 103 che precipitò nei cieli di Lockerbie. Ci furono 243 morti. Il 21 dicembre del 1988 è stato un incidente devastante, subito prima di Natale. Sappiamo poi che il mandante di questo attacco era stato il colonnello Gheddafi. Vi riassumo rapidamente quella che è la posizione americana. Beh, intanto non si esclude l'ipotesi che l'aereo fosse danneggiato e quindi possa essere esploso in volo per qualunque ragione. Magari si è rotto qualcosa. 18 anni fa questo aereo ha avuto un incidente, era un aereo comunque vecchio. La figlia di uno dei piloti ha raccontato di aver parlato col padre e di averlo trovato molto preoccupato. Il padre gli aveva detto, beh, dal punto di vista della manutenzione, dal punto di vista della tenuta di questo aereo siamo davvero piuttosto preoccupati. Però questo può essere un commento così che lascia il tempo che trova. La parte importante riguarda invece le ipotesi di attacco terroristico o una bomba piazzata sull'aereo oppure un missile. Ma al di là delle congetture, la preoccupazione che questo sia stato un attacco ha colpito. Sentiamo in particolare il congressman, la deputata Tulsi Gabbard, che è membro della commissione esteri alla Camera, è democratica, vi dicevo, soprattutto è una veterana, combattuto in Iraq, conosce molto bene la situazione. Sentiamo. My point here is the threat that Russia sees directly from these Islamic extremist groups, directly as it relates to what's happening in Syria. And frankly, I think the United States needs to recognize the same situation that threat also poses to us. Ecco, in questo commento della Gabbard, al di là delle congetture di cui tutti prendono atto, c'è un serio elemento politico che secondo me rappresenta una svolta importante, non fosse altro perché democratica, dunque vicina in qualche modo alla Casa Bianca. Cioè, la Gabbard dice, ci rendiamo conto di quanto Putin senta la minaccia per la Russia in arrivo da questi terroristi dell'ISIS. Ci rendiamo conto del perché sta cercando di difendere il regime di Assad. Il presidente russo teme che se il regime dovesse crollare, la Siria finirà nelle mani dell'ISIS e dunque ci sarebbe un pericolo di attacchi violenti, un pericolo di destabilizzazione direttamente contro la Russia. Io credo che noi dovremmo essere coscienti di questa situazione e preoccuparci almeno quanto i russi. Ecco, è una svolta perché finora russi e americani erano su posizioni contrapposte. Qui invece emerge un nemico comune contro il quale si deve combattere con una lotta senza quartiere. Dunque, in qualche modo si sta avallando l'azione della Russia in Siria, in qualche modo si sta dicendo, se entrambi abbiamo un nemico comune, meglio concentrarci nella sconfitta di questo nemico comune piuttosto che perderci in polemiche su chi deve fare cosa. Bene, questo per la parte politica, ma vorrei raccontarvi un po' di cose invece sull'economia e quindi cambiare completamente argomento. Sentiamo. This is how markets closed this Monday, November 2nd. It was another merger Monday as Shire agreed to acquire drug maker Dyax for a healthy premium. Deal news boosted the healthcare sector, leading to broader gains across markets. Avete sentito, il newscast ci ha dato la notizia della chiusura di ieri pomeriggio dell'indice Dow Jones, più 0,94% dell'indice Dow Jones, quota 17.828. Perché questa quota è importante? Perché il Dow Jones è ritornato in territorio positivo, cioè sta crescendo nel 2015. All'inizio del 2015 naturalmente cresceva ed aveva superato anche quota 18.000 a un certo momento. Poi durante l'estate, lo sappiamo, c'è stata la crisi cinese che ha attaccato la borsa è precipitata, c'è stata stata una forte correzione e siamo andati al di sotto dei livelli del 2015, siamo tornati sui livelli, diciamo, del 2014, per cui c'è un po' di ottimismo. Dovuto a che cosa? Beh, dovuto soprattutto a un attivismo delle aziende americane, dovuto a un attivismo delle fusioni, delle acquisizioni. Per esempio, ieri abbiamo avuto una notizia di una nuova fusione, la Visa, che pure non ha fatto molto bene dal punto di vista dei profitti, ha acquistato Visa Europe per 21,2 miliardi di dollari. Nasce di nuovo un colosso delle carte di credito che a un certo punto si era separato. Ma ci sono state altre operazioni interessanti e curiose. Per esempio, la vecchia Hewlett Packard formalmente ieri si è separata, non esiste più. Hewlett Packard, nome glorioso naturalmente. Ci sono due aziende a questo punto, dopo questo scorporo che era pianificato da tempo: la Hewlett Packard Inc., che è focalizzata su PC e stampanti, e Hewlett Packard Enterprise, specializzata in server, servizi, software, eccetera. Beh, la prima è aumentata addirittura del 12,75%, l'altra dello 0,07%. Però sono queste notizie che movimentano il mercato, sono anche le notizie di aziende come per esempio Estée Lauder, che pensate, ieri ha avuto un aumento in borsa dell'8,09%, ha avuto dei conti per il terzo trimestre molto buoni, un balzo del 36% degli utili, del 7,7% dei ricavi, molto al di sopra delle stime degli analisti. Parliamo ogni tanto con Fabrizio Freda perché è uno dei pochi italiani che guida un'azienda americana, in questo caso appunto la Estée Lauder. Qualche tempo fa ci aveva raccontato di come aveva organizzato delle strategie per contenere l'impatto del dollaro forte, di un rallentamento di alcuni mercati come la Cina, Hong Kong, Singapore, e come puntava più sull'Europa, su Medio Oriente, Africa, su certi negozi, sugli aeroporti, insomma una diversificazione che evidentemente ha ripagato. E beh, diciamo che questo risultato tra l'altro conferma il merito dell'onorificenza che ha avuto appena qualche settimana fa, perché è stato uno dei pochi stranieri, da qualche tempo si è deciso finalmente di includere italiani che lavorano all'estero, per l'onorificenza del Cavaliere del Lavoro. Ecco, questo insieme di notizie, l'attesa per altri profitti, insieme a dati economici importanti attesi, rendono questa settimana dal punto di vista economico molto interessante, perché è possibile che sia alla fine di questa settimana che si determinerà se la Federal Reserve andrà a aumentare o no i tassi di interesse a dicembre. Una piccola osservazione: JP Morgan ha diramato un comunicato in cui afferma che se la Fed dovesse aumentare i tassi di interesse, questa notizia avrà un effetto positivo in borsa. È la prima volta che un'istituzione bancaria americana lo afferma in modo così esplicito, e dunque teniamo gli occhi aperti proprio perché questa settimana potrà essere una settimana chiave. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio prendere lo spunto da una notizia, sempre di ieri, molto interessante. Barack Obama vuole aiutare i detenuti che si stanno reinserendo in società. C'è una riforma del Dipartimento della Giustizia, c'è una riforma della legge carceraria. Sono stati liberati 6.000 detenuti in America che erano, devo dire, detenuti ingiustamente per crimini da nulla, e Obama cerca di aiutarli. Da una parte ha stanziato 8 milioni di dollari per cercare di fare dei programmi di addestramento, dall'altra ha annunciato ieri delle misure pratiche. Per esempio, quando si fa la domanda di lavoro non c'è bisogno di compilare la casella in cui si chiede se ci sono dei precedenti penali. Tutto questo per aiutarli a reinserirsi in società e per non discriminare. Dunque, di Bob Marley, Redemption Song, la canzone della redenzione. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.